L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati, una nuova puntata dell'altro pianeta nella quale parleremo in particolare di acqua, l'acqua da bere, perché arrivano in circa 500 punti vendita della Coop in tutta Italia le tabelle con i parametri di qualità dell'acqua del rubinetto, cartelli che saranno compilati dai gestori dei servizi idrici con l'indicazione dei valori dei 9 principali parametri secondo gli orientamenti dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo è il contesto. I nostri ospiti chi sono? Claudio Toso, che è il coordinatore nazionale delle politiche sociali dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Possiamo dire COP per fare un po' più, per far capire, insomma? Guardi, l'importante è appunto che ci capiamo, quindi più veloce è meglio è COP. Parliamo COP, di stiamo parlando di COP, esatto. Perfetto. Luca Lucentini, che è il direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon pomeriggio, benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio a lei, ascoltatori. Allora, Claudio Toso, cominciamo intanto con lo spiegare di che si tratta, che iniziativa è, cosa prevede. Io l'ho letto molto in breve, ma lei sicuramente ci può spiegare meglio quello che accade nelle COP in tutta Italia. Sì, in tutta Italia lei ha centrato proprio il nucleo del problema, nel senso che siamo riusciti, come possiamo fare solo noi, nel senso che siamo la più grande catena di distribuzione in Italia, su tutto il territorio nazionale a creare questa campagna che ha un unico grande scopo, quello di poter aumentare la possibilità di scelta attraverso l'informazione corretta e puntuale, aumentare appunto la scelta da parte del consumatore nei confronti di alcuni prodotti, in questo caso l'acqua. Ovviamente questo è un tema che voi non affrontate adesso per la prima volta. Ci ricordiamo, chi ha seguito questa trasmissione, ma anche altre trasmissioni di Radio 24, ci ricordiamo che in passato COP comunque, sia pur suscitando grande discussione, magari poi accenniamo, ha affrontato la questione acqua del rubinetto, acqua in bottiglia. Certo, a partire dal 2010. Nel senso che abbiamo però utilizzato un altro canale. Noi avevamo già attraverso i prodotti COP l'acqua appunto prodotta da COP. Noi utilizzavamo su tutto il territorio nazionale due sorgenti. Abbiamo pensato bene di sviluppare questo campo dicendo ok, aumentiamo il numero delle sorgenti per ridurre la distanza, già in quel caso, fra appunto il consumatore finale e le sorgenti. Questo ha significato fare un grosso investimento, chiedere ai nostri fornitori di avere un impegno forte, perché significa un impegno forte anche da parte di chi collabora con noi, per poter appunto ridurre il chilometraggio fra la sorgente e il consumatore finale. E poi l'insistenza nei confronti del consumatore finale nel dire scegliete l'acqua, quella che proviene da più vicino, una volta messa sullo scaffale, insomma. Esatto, e questo è stato il secondo passaggio, l'ulteriore passaggio, quindi fate la prima fase, abbiamo pensato prima in collaborazione con Federutility, che è l'associazione che riunisce il 95% di gestori appunto degli acquedotti, poi in collaborazione con l'Istituto appunto con il professor Lucentini, di andare ancora oltre, quindi di ridurre ancora di più il chilometraggio, perché chi apre il rubinetto è quello che fa veramente la politica al chilometro zero in Italia su un prodotto alimentare. Questo è stato il secondo passaggio. Quindi adesso io come chiunque altro, posso entrare in una COP e vedere una tabella nella quale mi si indica che cosa. Esatto, lei entra in uno dei 500 punti vendita, perché non sono tutti i punti vendita, poi ci vuole spazio, ci vuole il gestore che collabori con noi, perché appunto ho detto sì, noi abbiamo trovato Federutility, ma non tutti i gestori hanno intenzione o possono collaborare. Quindi lei entra in un supermercato e troverà un cartello semplicissimo che attraverso 9 indicatori le spiega la qualità in relazione a quegli indicatori dell'acqua del rubinetto che lei troverà per il territorio in cui sta quel punto vendita, perché bisogna sempre ricordare che ci sono anche dei territori in cui ci sono più gestori che forniscono l'acqua. Allora l'abbiamo fatto proprio in relazione diretta fra quel punto vendita e quel gestore, e quindi lei attraverso quei nove potrà tranquillamente paragonare quell'acqua che esce dal rubinetto con quelle che trova in vendita e quindi fare la sua scelta. Federal Utility, forse non l'abbiamo detto, rappresenta il 90 e più per cento, 95 delle aziende che gestiscono il servizio idrico sul territorio italiano, quindi diciamo che se l'azienda idrica è collaborativa, ecco, è sensibile, non dovrebbero esserci problemi a trovare queste analisi esposte. No, almeno io poi tra l'altro ho imparato parecchie cosette, e poi magari il professor Lucentini spiegherà meglio, ma gli acquedotti sono costretti a fare le analisi con una continuità, una solidità incredibile, quindi ci sono quelli che si sono strutturati attraverso i propri siti per informare le persone, e quindi già adesso basta andare in giro per internet e si trovano queste analisi molto più complesse, molto più accurate di quelle che possiamo fare noi, che possiamo noi utilizzare nei punti vendita. E questo è stato un ulteriore canale, per questo l'accordo è stato, abbiamo trovato subito, perché è stato proprio reciproco, uno di far dare l'opportunità, l'altro di far conoscere quello che fa. Certo, allora veniamo a Luca Lucentini, ricordo appunto direttore del reparto di igiene delle acque interne, Istituto Superiore di Sanità. 9 parametri ci sono su questa bacheca, quali parametri sono, che cosa trova il consumatore? Ce lo spieghi un po' da esperto, insomma, ma in termini semplici. Anzitutto diciamo che il ruolo dell'Istituto è quello ovviamente di coordinare i regimi di controllo, i criteri e i metodi sulle acque, in questo caso destinate al consumo umano, ma anche su altre tipologie di acque come qualsiasi altra merce o prodotto che può avere impatto sulla salute del consumatore. Siamo un istituto che sotto l'egida del Ministero della Salute appunto garantisce la sicurezza d'uso e la salute dei consumatori. In questo caso in relazione all'acqua di rubinetto, sui nostri orientamenti poi diciamo più che con collaborazione diretta, sui nostri orientamenti si sono allineati appunto anche iniziative come questa che sono sicuramente utili e lodevoli per far conoscere tutto il mondo di attività e controlli che ruota dietro l'acqua di rubinetto, che spesso è un po' dietro le quinte. E diciamo, prima di entrare proprio nel merito di questi parametri, diciamo che sono stati selezionati alcuni parametri come diciamo porta per entrare negli altri parametri che sono disponibili, oggetto di milioni di controlli l'anno da parte dei gestori idrici e da parte delle autorità sanitarie locali, impegnate con qualificazione e passione diciamo tutti i giorni. Quelli che sono evidentemente sinteticamente riportati riguardano caratteristiche nutrizionali dell'acqua, mi riferisco alla durezza o anche elementi che possono avere una utilità sempre dal punto di vista nutrizionale, il fluoro, o anche elementi la cui presenza è indesiderabile per motivi sanitari, quali nitrati e nitriti, oppure parametri cosiddetti indicatori che non sono direttamente correlati alla salute, ma potrebbero indirettamente indicare appunto qualche problema sanitario, quale per esempio l'ammonio, il pH o anche il sodio, che in alcuni regimi dietetici particolari potrebbe avere significato. Quindi è un po' come avere un'etichetta, quella sulle bottiglie, semplicemente è l'acqua dell'acquedotto che viene in questo modo esemplificata. Beh, in qualche modo diciamo risponde. Potrei quasi paragonarle. Ogni prodotto che acquistiamo ha un'etichetta vicino al rubinetto che noi per consuetudine apriamo già fin da piccoli, non troviamo nulla su questo e quindi va a iniziare a colmare una laguna. Diciamo che i parametri indicati per sintesi non sono esaustivi di tutta la qualità dell'acqua, ma consentono di incuriosire il consumatore. Ricordiamo che speriamo fra poco sarà anche disponibile il portale delle acque da parte del Ministero della Salute, che veramente speriamo presto, perché le difficoltà sono tante, il coordinamento regionale richiede ovviamente delle attività particolari, ma speriamo di avere appunto la possibilità di identificare la nostra zona in internet e vedere la qualità dell'acqua che quotidianamente arriva. Ah, quindi avere una mappa completa addirittura? Sì, questo è lo scopo, il lavoro che sta svolgendo diciamo il Ministero da qualche anno e speriamo venga portato a termine nel giro di breve tempo. Senti, io ricordo un'iniziativa simile, nel senso che anche lì c'era l'esposizione di questi parametri per le scuole della provincia di Milano, mi pare. Accade quindi sta comunque diffondendosi sempre di più questa richiesta di diffusione di questi dati, mi pare. Beh, sì, diciamo che parallelamente a quello che avviene in altri settori, il consumatore finalmente, diciamo, acquista una consapevolezza maggiore e anche una volontà sul diritto ad essere correttamente informato, e quindi richiede e quindi interagisce con chi fornisce, in questo caso l'acqua, per sapere quello che gli viene fornito e cosa c'è dietro questa fornitura. E questo è importante, appunto, perché sapere come viene garantita la sicurezza e quali sono le caratteristiche di qualità è veramente un aspetto che forse è stato carente negli anni passati. Lo ripetiamo spesso, però lo diciamo anche in questa occasione, non è che l'acqua italiana dei rubinetti sia da averne paura, no? Cioè, la situazione non è negativa, ma nella stragrande maggioranza dei casi è positiva. Beh, diciamo che tutti i controlli che vengono fatti ne attestano appunto la conformità dal punto di vista normativo, fatte salve alcune criticità che possono verificarsi. L'acqua è una componente naturale, noi possiamo controllarla, gestirla, ma è la natura che ce la manda. Se i contenuti in alcuni elementi sono ricchi, faccio il caso appunto dell'arsenico, per cause naturali dovremo rimuoverlo, dovremo gestire questo rischio e comunque in ogni caso comunicarlo e farlo sapere al consumatore, ma riguarda, diciamo, zone ridotte e diciamo che le attività svolte sono tali che possiamo bere con elevata fiducia l'acqua di rubinetto. Claudio Toso, tutte le volte che Coop inizia una campagna di questo genere, c'è chi tira fuori che cosa ci guadagna Coop. Io, dal mio punto di vista, non riesco a immaginare cosa ci guadagnate, al di là del fatto di informare e di dare la possibilità di scegliere, ecco, perché poi uno fa quello che vuole alla fine. Ci guadagniamo il fatto che continuiamo a fare il nostro mestiere, un pezzo del nostro mestiere, come abbiamo fatto sempre. Allora, io poi ci ritorno su questo concetto, perché anch'io ho qualche difficoltà, ho ascoltato qualche intervento, ma ho qualche difficoltà a capire come si possa pensare che invitare la gente a non comprare l'acqua in bottiglia, e ricordo che noi siamo produttori di acqua in bottiglia, non tra è l'altro, tra l'altro. Quindi vuol dire che è un invito anche a scegliere fra le nostre acque in bottiglia, le acque di rubinetto, possa portare un guadagno commerciale a Coop. No, noi ci guadagniamo per il fatto che continuiamo a fare un pezzo del nostro mestiere, che è quello di avere un rapporto con il nostro socio. Ricordo che abbiamo 8 milioni di soci in Italia, e con gli altri consumatori, per poter dare quell'opportunità che ricordava il professor Lucentini, quindi consapevolezza per poter scegliere. Fra l'altro, non l'ho detto prima, ma le scelte che ci informano e ci fanno scegliere questa strada, noi le abbiamo definite, fra l'altro le abbiamo definite a grado, nel 1995 Coop ha deciso di darsi un decalogo sulla politica ambientale. E questi sono atti formali, possono essere messi a disposizione di chiunque richieda. Tre di quei punti sono, provi a pensare come riusciamo a declinarli oggi. Il primo, informare i soci consumatori, parlo di politica ambientale, quindi ci siamo strutturati per poterlo fare. Questa campagna è centrata su questo. Altro parametro, ridurre i rifiuti e riciclare i materiali. Terzo, ridurre il trasporto delle merci. Parliamo del 1995, atti formali a disposizione di tutti. Da lì è discesa la nostra anche politica commerciale. Quindi siamo in continuità, siamo in... continuiamo a fare un pezzo di mestiere che abbiamo sempre fatto. Poi se qualcuno pensa che riusciamo a guadagnarci, ce lo dice così. Se vi dà un suggerimento. Impariamo da nuovo, non è mica un problema. Noi siamo... Tra l'altro adesso non abbiamo qui Federutility, ma insomma credo che sia chiaro che non sono certo queste aziende che poi possono dare un contributo economico a Coop, ecco, le aziende... No. Ecco, questo non era neanche passata per la testa. No. Anzi, solitamente Coop che sostiene chi fa questo tipo di attività, perché ci interessa che appunto anche chi non ha le risorse economiche, in questo caso, possa continuare a fare il suo lavoro al meglio quando si trova su questi principi di COP. No, no, quindi proprio questo è interessante. No, è un dato interessante, sì, è vero, le ho dato una buona idea, chiedere qualche soldino a Federutility. Sì. Se ce la fa, se ce la fa, ce lo dica. Lucentini, tra l'altro ricordo che questo dell'informazione fa parte anche della così, politica generale dell'Unione Europea, cioè informare il consumatore non è soltanto l'Istituto Superiore di Sanità italiano che ha questa mission, ma è anche una richiesta che giustamente arriva da Bruxelles. Assolutamente sì, abbiamo delle normative quadro chiare, il codice del consumo è forse il principale riferimento e dobbiamo adempiere a questo, e spesso è stato un aspetto non in primo piano, ma deve esserlo, perché poi diciamo le opinioni debbono essere costruite sui dati e i dati devono essere forniti. Ancora un buon pomeriggio, seconda parte dell'Altro Pianeta. Ci colleghiamo adesso con Doha, dove si sta svolgendo la 18ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP18. C'è in collegamento con noi Maria Grazia Midulla, che è la responsabile clima ed energia del WWF Italia. Ben ritrovata. Dunque, come stanno andando i lavori? Sono iniziati da non molto, avrete davanti ancora molti giorni di discussione, ma come le è parso l'inizio di questa conferenza? Ma per adesso tutti sono molto gentili e cortesi tra di loro, il che non è di solito un buon segno, perché vuol dire che pensano di non concludere molto. La prossima settimana arriveranno i ministri e probabilmente le cose cambieranno, il tono cambierà. Noi pensiamo che si andrà sicuramente alla definizione di un secondo periodo di impegni di Kyoto, però gli impegni che i paesi hanno messo sul tappeto sono molto bassi, perché tutti dicono, ma questo è un vero e proprio slogan, questo è il pavimento, non è il tetto, quindi tutti aspettano che quegli altri facciano altri passi per fare a loro volta dei passi per loro conto. Quindi a forza di temporeggiare rischiamo di non concludere neanche in questa occasione. Rischiamo di concludere poco e di perdere tempo, come se avessimo, diciamo, un periodo molto lungo davanti, quando noi veniamo da un anno terribile in cui i campanelli d'allarme sono stati talmente tanti che non riesco neanche a citarli, però ci provo. La fusione del ghiaccio artico quasi completa, con emissione di grandi masse di aria, di acqua fredda negli oceani, e quindi conseguenze sul clima. Abbiamo avuto molta periodi di grande siccità negli Stati Uniti, in Europa e particolarmente nel Mediterraneo, in Ucraina, con problemi alimentari conseguenti per il prossimo anno. Cito solamente queste due cose per non andare su Sandy e gli uragani negli Stati Uniti, e anche i fenomeni estremi che si sono avuti in Europa, non solo da noi ma anche in Gran Bretagna più volte, eccetera eccetera. E allora di fronte a tutto questo noi dovremmo andare veramente veloci. Il cambiamento che ci viene richiesto è molto forte, e economicamente ci conviene agire il più presto possibile, perché se noi dobbiamo cambiare, virare tutto in una volta, questo ci costringerà a grandi spese, a grandi sborsi economici e sacrifici anche sociali. Quindi conviene a tutti muoversi subito. Qui a Doha invece ci pare che il senso sia ancora di grande lentezza. È vero che l'accordo sul clima è previsto per il 2015, è anche vero che Copenaghen ci insegna che noi che bisogna avere una roadmap, bisogna avere delle tappe per riuscire poi a raggiungere l'obiettivo finale, perché se si arriva al momento finale con tutto aperto, poi c'è il rischio di non concludere nulla. Certo, come a proposito di predicare bene e poi razzolare male, molta discussione c'è stata proprio sul fatto che si sia scelto il Qatar, che non è esattamente forse un modello di virtù per i consumi di energia, di acqua. Ma sicuramente è stata una scelta, diciamo così, ardita, però è anche vero che se non convinciamo alcuni di questi paesi a virare non riusciremo a concludere nulla. Noi come ambientalisti ci siamo dati una regola: dobbiamo giudicare la presidenza da quello che fa, non in base ad altre considerazioni. Quindi se la presidenza, diciamo, ostacola il processo, sicuramente lo denunceremo; se la presidenza lo aiuta, sicuramente lo riconosceremo. Questa è, diciamo, una piccola regola che ci siamo imposti. L'altra cosa è che comunque anche per il prossimo anno, forse lei avrà saputo che si parla della Polonia, perché le Nazioni Unite funzionano così: un paese si candida e ovviamente viene accettata la candidatura, essendo un consesso, diciamo, multilaterale, posto che ci siano le condizioni di ospitalità e tutte le condizioni organizzative. Ebbene, per il prossimo anno si è candidata la Polonia, e la Polonia oggi è protagonista in Europa di un vero e proprio blocco di tutte le normative ambientali e climatiche, essendo un paese che fonda tutta la sua produzione energetica sul carbone, cioè il peggiore combustibile fossile che esiste, con un'altissima emissione, certo, di CO2 quando viene bruciata. Bruciato. E quindi la cosa assurda è che oggi, tra l'altro, la Polonia, insieme alla Russia e all'Ucraina, è protagonista proprio di un dibattito qui, che è il dibattito sull'aria calda, nel senso che ad alcuni paesi dell'est europeo fu riconosciuto un livello di emissioni che era precedente al crollo economico del blocco dell'ex Unione Sovietica, quindi sono emissioni che non sono mai state emesse e che però oggi rappresentano, diciamo, quasi una virtù, cioè potrebbero in teoria essere commercializzate e quindi potrebbero costituire, diciamo, delle emissioni in più che si dà la possibilità di fare. Questo sarebbe una catastrofe, perché, certo, insomma, tutti gli impegni che aveva avuti fino adesso sarebbero praticamente annullati. Grazie a Maria Grazia Midulla, ricordo, responsabile clima ed energia di WWF Italia. Appuntamento alla prossima settimana e buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci. E adesso noi diamo spazio ad Articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Il 3 dicembre a Milano, nella splendida cornice della Villa Reale, si celebrano gli Stati Generali del Volontariato Culturale. L'Italia è una nazione di volontari e una parte di questi volontari si occupa attivamente del volontariato culturale. A organizzare questo momento d'incontro molto importante è, tra gli altri, il mensile Vita, ed è in collegamento con noi il direttore Giuseppe Frangi. Buongiorno, direttore. Buongiorno a tutti. Ecco, voi lunedì avrete un grande affare per mettere insieme le fila di questa realtà molto importante per l'Italia. Ecco, le faccio una prima domanda: quando parliamo di volontariato culturale, di chi parliamo? Di che numeri parliamo? Ma sono numeri abbastanza impressionanti. Innanzitutto è uno dei pochi volontariati che continua a crescere, mentre gli altri sono un po' in difficoltà, questo continua a crescere, certo, come numeri. E diciamo che ci riferiamo a un bacino di persone, intorno al 500.000 di persone. In un'intervista che abbiamo fatto a Salvatore Settis, sì, dice che le associazioni di carattere culturale oggi, di difesa quindi del patrimonio culturale oggi attive in Italia, oscillano tra le 20 e le 30.000, quindi si capisce che quel numero lì non è un numero arbitrario. Teniamo presente che però che esistono anche proprio dei numeri proprio specifici, cioè che sono i volontari che ogni anno sono impegnati nelle giornate della primavera del FAI, che sono 12.000, ci sono i volontari che tutti i giorni tengono aperti una trentina di siti in tutta Italia per conto del touring club e sono 1.200, insomma i numeri accumulandosi sono veramente, certo, notevoli. Molto considerevoli. Tra l'altro cita già quelli che sono le realtà, diciamo, più organizzate, più visibili del volontariato culturale: il FAI, l'Italia Nostra, il Touring Club, eccetera, ma credo che ce ne siano molte altre e verranno un po' tutti convocati da voi lunedì prossimo. Ecco, queste realtà, abbiamo già, lei ci ha già accennato, tengono aperto, gestiscono i beni culturali, ma in che modo si organizzano? Quali sono le cose che devono fare? E soprattutto, se c'è qualche emergenza, si può contare sui volontari? Ma, diciamo, sull'emergenza si può contare, e se l'ho dimostrato il recente caso del terremoto in Emilia. Sì. In particolare è stato straordinario il caso dei volontari di Finale Emilia, che si sono mobilitati, evidentemente adesso buona parte del patrimonio artistico distrutto non può essere ricostruito in questo momento perché ci sono altre emergenze, però poteva essere catalogato, cioè se tutti i resti sono stati catalogati e raccolti da volontari, no? Quindi questa è stata un'operazione preziosa, lungimirante, e loro stessi porteranno la loro storia, la loro testimonianza a Milano lunedì, capito? Quindi questa è un'esperienza. Poi dopo c'è invece la routine, chiamiamola routine, che riguarda appunto il tenere aperto dei luoghi. A Milano, diciamo che il più famoso è il monastero di San Maurizio Maggiore, tenete presente che è tenuto aperto dai volontari del Touring Club tutti i giorni, e che ha dei numeri impressionanti, sono 1200 persone al giorno che entrano in questa chiesa, fanno circa 350.000 persone all'anno, che sono più o meno i numeri di Brera, quindi ci si rende conto di quale domanda ci sia da parte del pubblico di poter vedere monumenti come questi. Certo, tanto questo è un luogo bellissimo, perché si chiama una sorta di Cappella Sistina di Milano, riccamente affrescata. Ecco, queste persone sicuramente maturano con questa esperienza di volontariato una professionalità eccezionale, perché a furia di stare a contatto sia in emergenza che nell'ordinaria amministrazione con i beni culturali, col problema della gestione, col problema dell'accoglienza, sostanzialmente imparano un mestiere. Ecco, discuterete forse della possibilità che il volontariato diventi un lavoro per queste persone? Sì, diciamo che bisogna sempre stare attenti a distinguere volontariato e lavoro, però diciamo che il punto primo è che i volontari sono dei grandissimi motivatori, cioè che un luogo tenuto aperto da un volontario è un luogo che attrae, primo punto. Punto secondo, quindi però questo diciamo siamo di fronte a volontari di una certa età, invece c'è tutta un'altra fascia che è interessantissima, persone giovani che magari avendo fatto studi di carattere umanistico o non trovando sbocchi iniziano a legare la propria vita a certi luoghi, a certi monumenti. La storia più bella è quella che racconteremo, che verrà testimoniata nel giorno 3 dicembre, è quella della Val di Susa. In Val di Susa esistono ben 65 associazioni culturali che ciascuna gestisce o un sito archeologico, una chiesa, una villa, un palazzo, no? E quasi tutte c'è un mix di pensionati, ma ci sono tantissimi giovani, stanno già nascendo piccole cooperative che si prendono cura non solo dell'apertura, ma di creare intorno al luogo anche altre attività, dal piccolo merchandising, magari aprire un luogo di ristoro e così via, in modo che l'attrazione che il luogo determina poi determini anche una generi anche un flusso economico che poi permette a questi ragazzi di vivere, capito? Quindi diciamo che in un piccolo territorio anche a forte tensione sociale, come potete immaginare che sia la Val di Susa, esiste questa esperienza, che è un'esperienza straordinaria. C'è anche il caso delle Groane qui fuori Milano, è un altro caso molto interessante di gestione delle ville gentilizie, grazie a un consorzio in cui sono entrati anche enti pubblici, e si è iniziato con un'esperienza di formazione di giovani volontari. Per 10 di questi giovani volontari questo è già diventato un mestiere, sono contratti a termine, però sono 10 persone che in questo momento tengono, gestiscono e promuovono questo patrimonio nascosto del territorio milanese, quindi siamo anche qui, è diventata un'opportunità di lavoro e di futuro per dei ragazzi. Ecco, perfetto, la tensione del volontariato porta verso il futuro. Grazie direttore Frangi. Grazie a voi e buona giornata. Di questa testimonianza, naturalmente tantissimi auguri agli Stati Generali del Volontariato Culturale che si celebreranno il 3 dicembre, lunedì prossimo, a Milano, alla Villa Reale. Grazie e buona giornata a tutti. Ed è tutto anche per questa puntata, grazie a Laura Fagin in redazione. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.